È l'ultimo collegamento di questa lunga diretta dedicata a tutte le manifestazioni che dalle 4 di questo pomeriggio ci sono state in davvero tante, tantissime città italiane che hanno mobilitato decine di migliaia di persone. E con Milano, di nuovo da Piazza Duomo, Cecilia Di Lieto. Sono migliaia le persone qua in Piazza del Duomo. Finalmente, come sentite in questo momento, la piazza sta scandendo la parola assassine. Adesso sempre dall'impianto si propone un minuto di silenzio per Carlo Giuliani. Si alzano dei pugni. Intanto ha iniziato a piovere, ma nessuno si muove. Di silenzio per Carlo Giuliani. Io non so se ve l'hanno già detto, ma c'è uno di quegli stuccioni artigianali fatti in casa che personalmente mi ha molto emozionato e che dice soltanto: siamo tutti Carlo Giuliani. E qui appunto gli applausi hanno coperto la voce dell'organizzazione, ma credo che stia dando la stima dei presenti in alcune decine di migliaia di persone non sentite. Ecco, ci dicono adesso 60.000 persone. Grazie Cecilia Di Lieto. Ciao. Ciao.